Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza, ci ascoltate qui ma anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page ci ascolta la diretta. Giovedì 16 giugno del 2016, questa è Visionari, il cinema su Radio Onda Rossa, tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Oggi cominciamo con un certo anticipo, data la durata breve del giornale radio. La scaletta e tutte le informazioni sulla trasmissione le trovate sul sito della radio, sull'home page, colonna centrale, trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Abbiamo con noi Razi Mohebi, regista del documentario Cittadini del Nulla. Razi, ci sei? Sì, ciao, buongiorno. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, il tuo documentario faceva parte di una rassegna di lavori Gli sguardi dentro, dedicata allo sguardo dei migranti o anche dei cittadini di seconda generazione che hanno realizzato dei film o documentari e sono stati proposti insieme, tutti insieme, per questa occasione. Avevamo annunciato questa manifestazione credo un paio di puntate fa. Adesso sentiremo invece alcuni degli autori di questi documentari e film. Il tuo documentario Cittadini del Nulla, allora, racconti a chi ci sta ascoltando, Razi, di cosa si parla? Ma i cittadini del nulla, come che si dice ai titoli, si parla del nulla e dei cittadini del nulla. Ma è nulla, sì. È due che non c'è lingua. Non c'è una lingua comune che sia comprensibile per tutti. Sì. Non c'è tempo, anche non c'è luogo, nel senso che due che non funziona. Lingua, nel senso che tutte le persone o tutte le cose perdano proprio il loro nome. E poi è quando che in mancanza di un lingua non c'è possibile sapere il senso del tempo. E poi anche il luogo perdono il loro funzionamento, per esempio funzionamento del luogo è questo che metta le persone o le cose in fronte uno dell'altro e per dialogare, ma quando che un luogo perde questo funzionamento e non c'è più luogo, ma dov'è che non c'è luogo, non c'è lingua, non c'è tempo, è per me è un nulla. Ma cittadini di questa nulla è niente, ma questa annientamento ce l'ha un processo, che nel corso di questo processo le persone o le cose che hanno proprio un nome e perdono è proprio il loro nome e i loro funzionamenti, e poi sono incapace di sentire o capire il senso del tempo e poi anche perdono il luogo, è così. Mm-hmm. Ma niente per me significa che è possibile tutto, essere possibile tutto, nel senso che dopo di questo annientamento si sia una possibilità, è una volontà politica, è un'apertura culturale, e questo niente possono essere qualcuno o qualcosa. Senti Razi, dove è stato girato il tuo documentario? In che località, in che luogo, in che città? Come luogo, come personaggi erano tutti e rifugiati politici, sì. Ma come luogo era l'ex fabbrica di Montecatini, sì. a Mori, che doveva che produceva una volta almeno per maggior parte di armi di prima o seconda guerra mondiale, è un posto famoso quel momento, ma ha dito, e non è più il luogo, perché quel momento incontravano a quel posto migliaia di persone e produceva delle cose e dei dialoghi e tutto quello, ma ha dito, siccome non è più il luogo, perché anche tu si mette in Google dove è Montecatina e non tu riesci a trovarlo, perché non ce l'ha un indirizzo, ma perché non è più il luogo. Senti, e questi rifugiati da quali paesi provenivano? Questa quello che ha recitato come un'attrice, Monira Hashimi, e viene dall'Afghanistan, ma il resto vengono come rifugiati da maggior parte dei paesi dove che c'è guerra o non c'è possibilità di vivere, come che pensano, e la gente fugano e vengono qui e chiedono asilo politico, ma questo film non parla di prima accoglienza o anche seconda accoglienza, e parla di terza accoglienza è quello che non c'è soprattutto in Italia. Ecco, questo è quando che un persona fugge e poi viene e richiede che asilo politico e poi viene riconosciuto come asilo politico di un paese, e poi per terza accoglienza che deve integrarsi e trovare lavoro, casa, identità e tutto quello, è il momento di dare frutto. Ma per quello, e parla di questo, perché parla che senza, perché è questo processo e ci vuole un'apertura politica, un'apertura culturale, una volontà politica, che nel senso che dove che deve essere una legge organica e tutti quelli, ci vuole un insieme delle cose per integrarsi e per dare un frutto, e parla di quel momento. Ok. Senti, Razzi, quante persone vivono in questa fabbrica abbandonata a Montecatini? Questa fabbrica è molto emarginata dalla città. Okay. In realtà adesso non so che siano qualcuno o no, ma perché adesso è molto sorvegliato. Ma una volta c'erano delle persone. Senti, il tuo documentario è stato presentato in questa rassegna, e invece prossimamente dove si potrà vederlo? Questo purtroppo maggior parte di questo film, soprattutto in Italia, per questo film si producono, ma per distribuirli un po' c'è difficoltà, ma questo nel nostro film per far vedere c'è in internet, anche si chiede direttamente da noi o di Archivio Immigrazioni o di Cinetica di Bologna o di Premio Muti che distribuiscono questo film. Ok, c'è anche, se non sbaglio, la pagina Facebook di Cittadini del Nulla. Sì, anche c'è una pagina Facebook, anche c'è su Vimeo. Va bene. Razzi, sì. Io ti ringrazio e magari ci sentiamo prossimamente per qualche novità, qualche altro nuovo lavoro o degli sviluppi rispetto a questo Cittadini del Nulla, va bene? Grazie a voi e a tutti quelli che hanno ascoltato noi, e auguri a un anno, una buona serata. Grazie anche a te, ciao Razzi. Razzi Mohebbi, regista del documentario Cittadini del Nulla. Eccoci con Edoardo Dell'Acqua sull'iniziativa Riapriamo il nuovo cinema Aquila, che sarà tra oggi e domani proprio davanti al nuovo cinema Aquila al Pigneto qui a Roma. Edoardo, ben ritrovato. Grazie, ciao Federico, un saluto a tutte le compagne e compagni che ci ascoltano. Tra l'altro non ritrovavo il tuo numero, sono andato a cercarlo indietro nelle agende di Visionari ed era dal 2008 che non ci sentivamo in diretta. Ma questa cosa è vergognosa. È increscioso. Senti Edo, allora raccontaci un po' gli sviluppi rispetto a questa situazione. Certo, allora rapidamente, no, il nuovo cinema Aquila è il cinema del Pigneto, che venne sequestrato la criminalità, la mafia, alla banda Amagliana esattamente. Il comune l'ha riaperto nel 2008 dandolo in gestione, per una serie di irregolarità poi il comune ha revocato a gennaio 2015 la concessione e quindi poi a giugno il cinema ha chiuso. Cosa è successo? Che la benemerita assessora Rinelli alla cultura nella passata giunta, grande donna, ha detto facciamo subito un bando, ma il bando c'è stato, ma insomma intanto abbiamo l'impressione che ci fosse già qualche idea su cosa doveva succedere dentro al cinema. Fatto sta che il bando non ha portato nessun vincitore, la commissione esaminatrice ha deciso che i progetti non erano all'altezza e quindi al cinema da il 1 ottobre, giorno in cui è stato pubblicato l'esito del bando, non sta succedendo nulla. Il cinema è un dente cariato, è un pezzo di città che non c'è, un nulla, o meglio in realtà una funzione la sta assolvendo, non quella di luogo di cultura, luogo di inclusione, luogo di socializzazione eccetera, ma è il posto dove ci si siede ad aspettare il pusher, o dove i pusher si siedono ad aspettare i loro clienti, cioè è subito stato inglobato in un altro tipo di vita del Pigneto che non è quella che tutti insomma auspichiamo costantemente. Cosa sto facendo allora? Cosa stiamo facendo io insieme ad altre persone che sono Fabrizio Cianci e Ilari Valbonesi, una critica d'arte. Fabrizio Cianci è il segretario dell'associazione ecologista radicale, gli Ecoradicali. Faremo oggi e domani dalle 15 alle dalle 17 alle 22 un sit-in, un tavolo di raccolta firme, perché vogliamo avere le firme per una interrogazione popolare al futuro sindaco, in cui gli chiediamo di farci sapere esattamente cosa sta succedendo al cinema Aquila, per quale motivo non parte il nuovo bando, e chiediamo contemporaneamente due candidati sindaci, Raggi e Giachetti, di impegnarsi, con una lettera che abbiamo mandato, di impegnarsi perché la riapertura, cioè il bando per la riapertura del nuovo cinema, sia il loro primo impegno da sindaci. Questo non perché riteniamo che il cinema sotto casa sia la cosa più importante, ma perché il cinema Aquila, come dicevo prima, è un bene confiscato, quindi c'è una valenza riguardo al discorso sulla legalità, è un luogo appunto di inclusione, è un luogo, è un pezzo di città. Noi vogliamo che il nuovo cinema Aquila sia un pezzo di città, non una sala e basta, con attività di mattina e di pomeriggio, un'interlocuzione costante con il quartiere, con tutti i romani. Allora ci sembra possa essere quello del nuovo cinema Aquila un gesto significativo come prima azione da sindaco. Speriamo che domani i due candidati vengano e si assumano l'impegno che gli stiamo chiedendo. Edo, come sono composte queste due giornate? Allora, ma innanzitutto informazione, cioè al banco daremo informazione, al tavolo daremo informazione su quella che è stata la vicenda, ma soprattutto cosa può essere il cinema Aquila, o in assoluto un cinema, diciamo, come dire, un po' più lungimirante per una città, per un quartiere come il Pigneto, quali funzioni può svolgere il cinema, oltre a essere un posto dove si sta seduti e si guarda un film, possono avvenire tantissime altre cose, poi tu le conosci tutte, dalle cinemamme, cioè i film per le neomamme mentre hanno i bambini in braccio e allattano, ma può essere un posto dove si vanno a vedere quei film che stiamo studiando all'università nel nostro corso di storia del cinema, ma può essere un posto dove si abbattono un certo tipo di barriere perché si proiettano film con i sottotitoli per i sordi, per cui anche il non udente può andare al cinema con il nipote, il fratello, la fidanzata, senza sentirsi isolato. Possono avvenire tantissime cose in un cinema di questo tipo, per cui racconteremo questo e poi domani avremo una proiezione. tu adesso mi chiederai cosa proiettate. Ho letto però. Allora, la proiezione è la proiezione di un cinema che non c'è, che è chiuso, per cui non proiettiamo niente. Allora, come a me mi piace pensare questa cosa, un po' come la partita a tennis in blow up di Antonioni, dove giocano senza avere racchette, senza avere pallina, noi ci sederemo sulle sedie che portiamo da casa e guarderemo la facciata per il tempo di un cortometraggio, cioè 5 minuti. Non esageriamo, diventa troppo impegnativo per il nostro. Esatto. E guarderemo il niente, perché il cinema è chiuso, oppure invece guarderemo quello che abbiamo in mente, perché poi quel cinema può diventare qualunque cosa se lo vogliamo e se ci diamo da fare, ma soprattutto se l'amministrazione, i futuri sindaci ci vogliono dare ascolto. Mm-hmm. Quindi avremo questo tavolo di informazione, raccolta firme per questa interrogazione popolare, e avremo poi, sarà un piccolo happening, ci saranno degli interventi artistici, varie cose, sarà del jazz, tante cose così, insomma. Mm-hmm. E in rete, per saperne di più, ci lasci qualche indicazione? Certo, vi consiglio di andare su Facebook, sulla pagina Riapriamo il nuovo Cinema Aquila. Benissimo. E l'hashtag della nostra iniziativa è hashtag Riapriamo Roma. Benissimo, Edo, allora un abbraccio, a risentirci per delle novità interessanti, speriamo. Vi ringrazio e salutandovi, vi ricordo che oggi e domani dalle 17 alle 22 al nuovo Cinema Aquila, via Aquila. Bene, tutto. Bene. Grazie Federico. Ciao Edo, un abbraccio, a presto. Un saluto a tutti, ciao. Edoardo Dell'Acqua sull'iniziativa Riapriamo il nuovo Cinema Aquila oggi e domani davanti al Cinema Aquila, quartiere Pigneto, qui a Roma. Il regista Marco Amenta per parlarci del suo documentario Magic Island, che è stato premiato alla 10ª edizione del Salina Doc Fest pochi giorni fa. Marco, ben ritrovato su queste frequenze. Grazie, buongiorno a tutti, a te Federico e agli ascoltatori. Oh, poco fa ho sentito Edoardo Dell'Acqua, che non sentivo dal 2008, e te poco meno, perché ho rivisto l'agenda, era dal 2009 che non ci sentivamo in diretta a Visionari, quindi è passato un po' di tempo, ne sono successe un po' di cose. Marco, questo documentario come nasce? Sì, intanto lo chiamerei più un film, nel senso che si basa su fatti veri, però non ci sono interviste, è un racconto in prima persona di un personaggio, anche se è un documentario, nel senso che non ci sono, non è una messa in scena, ma è la vera storia di un personaggio che fa un viaggio. Sì. Ma nasce perché io conoscevo questo attore italo-americano che si chiamava Vincent Schiavelli, che era, per chi il nome non viene subito in mente, però era praticamente il fantasma nella metropolitana del film Ghost. Quello alto, un po' brutto, insomma, personaggio molto molto particolare, che era anche uno dei protagonisti di Qualcuno volò sul nido del cuculo con Jack Nicholson, ha fatto Batman, Amadeus, insomma un sacco di grandi film in cui lui faceva il caratterista, con questo suo viso molto particolare, questa testa allungata, il cappello, insomma, un personaggio molto strano. E lui praticamente all'età di 50-60 anni ha deciso di smettere con Hollywood, con questi grossi film hollywoodiani, e tornare nel paesino da cui era originario, da cui erano partiti i suoi genitori tantissimi anni fa, che è Polizzi Generosa, un paesino arroccato nelle Madonie in Sicilia, al cuore della Sicilia, paese di cui è originario tra l'altro anche Martin Scorsese, per puro caso. Quindi lui torna per ritrovare un po' le sue origini, perché è stanco della finzione di Hollywood e vuole ritrovare l'amicizia, la famiglia, il cibo, il silenzio, insomma un altro tipo di vita. E là ci siamo conosciuti, eccetera eccetera. Poi purtroppo si è ammalato ed è morto di tumore, e a quel punto lui aveva un figlio che mi diceva: Marco, sono preoccupato, questo figlio ha 14 anni, fuma la marijuana, fa questo, ha fatto il tuo Vincent, tu l'hai abbandonato a New York con il tuo figlio, il meno che possa fare è che si fuma la marijuana, insomma, quindi stai tranquillo, è normale, ragazzino, insomma. Però questo figlio, quando lui stava male, poi quando è morto a funerale, insomma, non è mai venuto in Sicilia, e per 10 anni non è mai venuto. E quindi a me è venuto in mente che fine ha fatto questo Andrea, questo figlio che nel frattempo è diventato musicista. L'ho sentito a New York, l'ho chiamato e lui mi ha detto: cioè, Marco, guarda, è strano che tu mi chiami, perché proprio qualche giorno fa mi ha chiamato la ex fidanzata di mio padre dalla Sicilia, Katia, e mi ha detto che ci sono dei soldi sul conto di mio padre in questa banca a Ponzi Generosa, e se non torno a prenderli, se non torno a prenderli entro 10 anni, la banca che li prende tornano allo Stato. Cioè, però io ho paura a tornare, ho paura del giudizio dei parenti perché non sono mai tornato, ho paura dell'aereo, non me la sento, insomma lui era un po' spaventato. Però dice, però se partiamo insieme, io ho detto guarda, ma ti andrebbe di filmarti, io ti filmo e ti seguo in questo viaggio. E alla fine lui insomma ha accettato, e io sono stato una specie di accompagnatore, cioè lui vedeva in me un alleato, perché questo, abbiamo fatto questo viaggio che parte da New York, dalla sua musica, fino in Sicilia, fino a Ponzi Generosa, dove lui si confronta con la figura paterna, tenta di riallacciare il suo rapporto con questa ingombrante figura paterna che era suo padre. E in un certo senso è un viaggio fisico, è un road movie, ma è anche un viaggio emotivo molto forte, perché lui cerca di riafferrare dei brandelli della sua vita passata, tentando di ricostruire chi davvero fosse il padre e perché il padre è andato in Sicilia, quindi riallacciando una serie di connessioni sentimentali ed emotive col padre e con la sua assenza. E quindi ne nasce un film che è un road movie doloroso, però ogni tanto anche divertente, perché lui non parla italiano, quindi parla un cattivissimo italiano, quindi non si capisce, con la fidanzata del padre, con gli amici, con col bancario, quindi ci sono una serie di gaffe, insomma, di situazioni esilaranti. E poi è un film in realtà sulla... il padre era tornato in Sicilia per cercare la sua identità. Sì. E Andrea, però, una frase bellissima che dice nel film, dice: mio padre ha cercato tutta la sua vita la sua identità ed è tornato in Sicilia per ritrovare se stesso, però in questo percorso si è dimenticato di suo figlio e mi ha creato lo stesso problema, perché lui è cresciuto a New York col padre che stava in Italia, con le origini italoamericane, una madre che fa pure l'attrice, quindi anche lui ha questo problema di identità. E il film è infatti una ricerca sull'identità e sull'importanza delle radici, ma anche sull'elaborazione del lutto e sul senso della vita, insomma. È forse eccessivo da parte di un regista dire che un film è sul senso della vita, però era un piccolo film, sì, abbiamo seguito questo personaggio, però il risultato... Ora vedevo a Salina le emozioni degli spettatori, non solo la giuria che lo ha premiato, ma anche gli spettatori erano molto toccati, perché lui è riuscito a... è stato molto generoso, si è dimenticato della cinepresa davanti a lui e si è aperto, insomma ci ha dato le sue emozioni. E vediamo nel film proprio un percorso psicologico ed emotivo, cosa che in un film documentario è difficile, per questo parlo di un film più che un documentario. Però lui si è completamente dimenticato di noi. Io stesso tenevo una o due cineprese e ha vissuto al presente la sua vita. Era un film difficile, perché non sapevamo come avrebbe reagito, cosa sarebbe successo, e quindi ringrazio la società produttrice che è Eurofilm, Simonetta Menta, che poi è mia sorella, la Sicilia Film Commission che ha creduto nel progetto, la francese Mediterranea Film e l'Île de France che hanno aiutato e permesso questo film di esistere. Quindi diciamo è diverso dai film precedenti, tu citavi qualche anno fa, insomma, La Siciliana Ribelle, Il Fantasma di Corleone, sì, film un po' politici dove un sacco di morti, insomma, morte violente, insomma, film con grandi colpi di scena. Questo è un film molto intimo, delicato, in cui tutto avviene dentro la testa del personaggio più che fuori, in un certo senso. Senti, di questa vicenda del rientro in Sicilia di Schiavelli ne sei venuto a conoscenza casualmente, volevo chiederti, e poi come hai deciso perché hai deciso e come poi è venuta questa decisione di filmare il viaggio del figlio? Guarda, Vincent quando è tornato in Sicilia l'ho conosciuto, perché aveva fatto anche una piccola parte nel Fantasma di Corleone, che poi purtroppo abbiamo tagliato perché era un docufiction, però poi le parti di realtà degli investigatori che inseguivano Provenzano erano più forti. Lui aveva creato un personaggio di un pittore amico di Provenzano dell'infanzia, che poi ossessivamente continuava a dipingere le immagini di Provenzano all'infinito, perché aveva perso questo suo amico che era latitante. che era una parte molto bella, però poi nel film finale non riusciva a inserirsi. Quindi ci siamo legati di amicizia, lui era un personaggio molto estroso, molto forte, amava mangiare, amava il cibo, e poi parlava in questo stranissimo dialetto siciliano incomprensibile, che era quello dei suoi nonni, perché in realtà erano i suoi nonni che erano partiti dalla Sicilia, e quindi lui a New York aveva imparato questo dialetto dei suoi nonni, tipo del 1800, che ne so, e infatti dicevo: Vince, per favore, parla inglese, perché il suo dialetto non è comprensibile, però lui ci teneva, e quindi parlavamo questa specie di dialetto incomprensibile. E quindi, insomma, mi sono legato a lui, e questa morte prematura, purtroppo, questa malattia del secolo, che il tumore ce l'ha portato via, però il suo ricordo è sempre vivo, anche tanta gente in Italia che l'ha incrociato, perché poi lui ha fatto una serie di film italiani, Nuovo Mondo di Crialese, quello di Ferrari di Carlo Carlei, ha fatto una serie di partecipazioni, sì, sì, a film italiani, perché voleva, insomma, riappropriarsi della sua parte italiana. Sì. E poi perché di questo film? Ma io ho girato tanto il mondo con i film precedenti, dicevo, La Sicilia Ribelle, Il Fantasma di Corleone, e spesso all'estero diciamo: perché racconti solo la mafia presente in Sicilia e non la bellezza della Sicilia? Però a me piacciono le storie drammatiche, le storie forti, però poi effettivamente mi era venuto in mente di raccontare qualcosa della Sicilia diverso, e questa storia permette di raccontare un po' quest'animo ai siciliani, un po' il ritorno alle origini, un po', no, la filosofia slow food, se vogliamo, che è un po' quella, cioè andarsene da Hollywood, dalla finzione, dalla carriera, per tornare a vivere in maniera serena in un piccolo centro, godendosi delle piccole cose, gli amici, è quello che aveva fatto Vincent. E questo film racconta anche questo, perché il figlio ripercorre le tracce, le tappe di suo padre, e quindi si rende conto delle scelte che ha fatto suo padre, quindi è questo un po' il perché del film. Sì. Senti Marco, mi parlavi della decisione di realizzare una piccola distribuzione in autunno. Sì, stiamo parlando con dei distributori. Guarda, devo dire che è venuto fuori perché il pubblico ha risposto molto bene, sia il film è andato all'importante festival Hot Dog a Toronto, poi è stato a Bellaria, ora sta a Dog Fest, ora farà una serie di altri festival in Italia e all'estero, e la risposta del pubblico, devo dire, è stata molto molto bella, perché anche un pubblico non cinefilo, cioè gente di tutti i tipi, di tutte le stazioni sociali, si è identificata molto con il percorso emotivo di questo personaggio, che è buffo lui, insomma, è un po' nerd, un po' buffo, questo musicista alto, un po' goffo come il padre, però genuino e tenero, cioè noi ci medesimiamo con la tenerezza di questo film, e quindi merita effettivamente una distribuzione cinematografica, anche se piccola chiaramente, e inizieremo sì fine estate, ottobre, novembre, insomma, in questo periodo. Mm-hmm. Per chi volesse seguire il film, c'è una pagina di Facebook che si chiama proprio Magic Island, o anche la pagina Facebook di Eurofilm, la società, dove terremo al corrente chi vuole con la programmazione, i festival e le varie proiezioni in giro per l'Italia e per l'estero, perché anche negli USA, New York, stiamo cercando di organizzare una serie di proiezioni, perché è proprio l'identità anche italo-americana che si racconta. Cercheremo di coinvolgere Martin Scorsese, che è originario dello stesso paesino, Polizia Generosa, che potrebbe sponsorizzare e difendere il film. Bene. In un certo senso. Allora Marco, io ti ringrazio e ci diamo appuntamento per l'uscita in sala a questo punto. Perfetto, tante grazie e saluti a tutti i telespettatori e buona continuazione, telespettatori, vabbè. Radioascoltatori. Radioascoltatori, esatto. Un abbraccio, ciao, a presto a Marco, ciao. Ciao, ciao. Grazie, ciao. Anche a te. Ciao. Ciao, ciao. Marco Amenta, regista del documentario Magic Island, premiato pochi giorni fa alla 10ª edizione del Salina Dog Fest. Eccoci con Dario Bonazzelli di I Wonder Pictures per parlare della distribuzione del film Ma tutto andrà bene, in uscita in sala oggi giovedì 16 giugno. Dario, ben ritrovato a Visionari. Buongiorno a tutti. Come stai? Molto bene, molto bene. Direi che stiamo arrivando alla sesta giornata di festival, di Biografia Festival, molto bene, sono ancora vivo, ho lunghe occhiaie ma va tutto bene. Vi parlo di Biografia Festival perché è qua che si è svolta l'anteprima nazionale del film Mamma tutto andrà bene lo scorso sabato. Abbiamo avuto il grande onore di accogliere qua, purtroppo non Penelope Cruz ma il regista Julio Medem, è stato qua con noi ed è stato insomma un momento emozionante e anche molto molto divertente. Il film è partito con un traino pazzesco, abbiamo riempito tutte le sale a nostra disposizione e insomma siamo fiduciosi che la cosa si ripeterà già da stasera, anche se immagino che coloro che ci stanno ascoltando, magari se a casa loro fa bel tempo, magari vorranno anche andare al mare se riescono. Io li invito invece ad andare nelle sale e non perdersi questo film. Mamma è un film importante per il nostro listino perché è un film che ha una protagonista eccezionale, che ha insomma una performance di racconto incredibile, che è degna dei migliori suoi film precedenti con Almodovar e che nell'occasione ha svolto insomma ovviamente il ruolo di protagonista ma anche quella di produttrice, per cui è una storia che le si è ritagliata addosso, che sente molto sua e dal quale riesce a far passare delle emozioni da brividi, per cui si piange, si ride anche e non si rimarrà sicuramente indifferenti all'uscita della sala. Senti Dario, per chi ci ascolta diamo qualche elemento della storia del film, della trama. Sì, Mama è appunto un gergo, ecco, diciamo, in cui si appella insomma sì la mamma, diciamo un film spagnolo dove Penelope Cruz riveste i panni di una giovane madre che scopre purtroppo di avere una malattia, un cancro al seno, che affronta con un sorriso e con una forza e un'energia che solo delle persone insomma straordinarie riescono a tirar fuori poi nei momenti più difficili. Quindi insomma tutto il film, ecco, si sviluppa attorno alla sua storia, al suo amore insomma verso il figlio e quindi tutto ciò che in una normale insomma vita familiare trasforma la malattia, così diciamo. È un momento in cui perde il lavoro, si lascia con l'ex marito, trova un nuovo compagno che le dà nuova linfa vitale proprio nel momento in cui scopre questa malattia e il film l'affronta, ne parla e insomma non sempre poi da brutte accadimenti succedono cose di conseguenza poco piacevoli, anzi ci sarà poi una felice sorpresa che renderà anche felice questo suo più felice insomma più questo suo momento di vita. Ecco, ho cercato di esprimere quello che a me ha trasmesso e le sensazioni forti che mi sono arrivate direttamente allo stomaco. Senti Dario, dove e come avete incontrato questo film e come poi avete deciso la distribuzione? Il film lo abbiamo scoperto, l'ho scoperto il direttore Andrea Romeo nei festival, si è innamorato subito di questa storia e abbiamo abbiamo deciso di portarla in Italia. Abbiamo fatto un grande lavoro a fianco della produzione internazionale, proprio perché il film è già uscito in Spagna con buon successo e insomma i nostri cugini spagnoli ci guardano molto. Da quel momento in là abbiamo già subito concordato un'uscita in questo periodo estivo, proprio perché è anche un momento in cui ci auguriamo che tante donne vogliano ritrovarsi e rispecchiarsi in questa storia, e ovviamente saranno anche le donne che magari lasceranno i mariti vedersi le partite degli europei e andare in gruppo a vedere i film al cinema. Dario, bene, io allora ti ringrazio, ricordiamolo, Mamma tutto andrà bene, in uscita in sala oggi giovedì 16 giugno. Un abbraccio e a risentirci presto. Grazie a voi, a presto. Ciao. Ciao. Dario Bonazzelli di I Wonder Pictures. Bene, siamo in collegamento con Enzo Papetti, co-regista del film Calcolo infinitesimale, in uscita in sala anche questo oggi, giovedì 16 giugno. Enzo, ci sei? Sì, io ci sono, ti sento. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie a voi. Tra l'altro sei anche autore del testo, oltre che regista. Sì. Allora, raccontaci un po' di questa storia. Ma questo non vale, questa è una domanda tranello, chi non si racconta? Soprattutto questo film che bisogna andarlo a vedere. No, dacci allora, qualche indicazione, sì, molto, certo, no, molto labile. Allora, guarda, si tratta di una commedia stralunata. Sì. Una storia di incastri dove tutto ciò che sembra non è. E dove realtà e immaginazione, menzogna e verità finiscono per confondersi, no? Sì. Abbastanza. Sì. La trama, lui è uno scrittore di successo che si è ritirato dal mondo e lei è una giornalista che è disposta a tutto pur di intervistarlo. Sì. Però come ho detto prima, tutto è ciò che sembra ma non è. Finché ad un certo punto una verità viene a galle, ad entrambi non resta che trarre le logiche conseguenze. È una storia d'amore, ma totalmente, come dire, al di fuori dei soliti schemi. Sì, perché sì. Il racconto procede per continui ribaltamenti, situazioni inattese, dialoghi brillanti, e il tutto è inquadrato nella cornice aspra e selvaggia del paesaggio strombolano. Mm-hmm. Tant'è che il film ha anche vinto il premio delle Isole Eolie Stromboli in Lago. Allora, chiaramente ti chiedo anche come nasce quest'idea del film, da dove viene fuori? Allora, il film l'idea nasce, è un film totalmente indipendente. Sì. E nasce dall'esigenza di poter fare un film come volevamo noi, senza i soliti condizionamenti di Rai, media, eccetera. Sì. O di produttori asserviti al sistema, al mainstream tradizionale. Ecco, no? Quindi nasce da lì l'operazione. E da qui anche una certa libertà di linguaggio che abbiamo potuto utilizzare. È un film per un pubblico raffinato, che quindi ama un cinema di qualità, però è leggero e divertente. Non è, cioè, pur essendo un film d'autore, non è un film di quelli che richiedono, come dire, un approccio pesante. Ecco. Il film si chiama Calcolo infinitesimale. Sì. E un po' tutta la storia è modulata sull'operazione del calcolo, cioè che è un'operazione matematica che non ha mai fine, e che in qualche modo può essere considerata una specie di allegoria della vita, in quanto ne riproduce l'infinito procedere, no? Senza una meta certa, ultima. E l'incertezza che domina il percorso narrativo simula le strategie del calcolo. Ecco, questa è un po' l'origine con cui abbiamo voluto misurarci. Sì. Senti, un film sperimentale, poi vediamo come andrà. Eh sì. Senti, come c'è un personaggio, una comparsa che si trova al di fuori del suo elemento naturale, e ci sono delle inserzioni disegnate, c'è la, sì, la musica di Paolo Fresu. Ecco, certo, come esatto, hai deciso di combinare tutti questi elementi? Allora, il film procede come una specie di balletto, di minuetto. Sì. Allora i vari momenti, cioè i vari momenti narrativi, diciamo, e i vari linguaggi si accordano, no, a una specie di melodia intrinseca nella storia. Questo è quello che abbiamo cercato di fare. Sì, sì, sì, sì. Non so se sono stato chiaro. Sì. Ma non voglio neanche esserlo più di tanto. Chiaramente. No, gli attori sono Stefania Rocca e Luca Lionello. Ecco, ti volevo chiedere anche di questo, la scelta dei due protagonisti. Non è stata facile, non è stata facile la scelta, perché è un film, allora, una delle caratteristiche del film è che è antirealista, e nel nostro cinema, diciamo, la corrente non strettamente realistica non è molto frequentata, e quindi avevo bisogno di due attori capaci di più registri, interpretativi. Ho fatto leggere la sceneggiatura a Luca Lionello, che mi ha detto: questo film lo voglio assolutamente fare, e insieme abbiamo cercato l'attrice io ho conosciuto Stefania Rocca, che mi è sembrata la donna giusta per interpretarlo, perché contemporaneamente normale e stranata. Sì, sì, sì, sì, sì. E l'incontro con Paolo Fresu? Allora, Paolo Fresu è un amico. Paolo Fresu ha fatto anche il concerto a Stromboli, concerto dentro il vulcano, proprio per il film, per promuovere anche il film. Con Paolo Fresu abbiamo lavorato benissimo, nel senso che io gli ho suggerito alcuni temi, alcuni titoli di brani molto noti. Ho detto: se avessi denari metterei questi brani, e quindi tu devi farmi qualcosa di analogo, ma che non devono essere quei brani. Ed è stato molto divertente lavorare con lui. Senti, c'è anche una canzone che poi alla fine canta Stefania Rocca, e che si chiama Bocca di Fuoco, che la dice lunga. Sì, sì, sì, sì. Senti, Enzo, nel film specifichi all'inizio che è tratto da una storia vera, poi chiaramente tutta interpretata da te, ma ci sono quindi elementi reali di partenza? No. Ok. Cioè, quelli sono tutti segni per depistare lo spettatore, che si accorge che stiamo giocando con lui. Ok. No? Ci si mette un buon 20 minuti prima di capire che cosa stai guardando, perché è totalmente depistante. Senti, sì, dimmi. No, volevo dirti un'altra cosa che mi sono dimenticato: insieme a Paolo ha lavorato Daniele Di Bonaventura, sì, che è un altro grandissimo musicista. Sono molto legato. Enzo, in che forma esce il film? In quante sale sarà? Allora, per il momento, sai, immagino tu conosca molto bene il sistema distributivo italiano, come funziona. Comunque noi usciamo in 7-8 città di principali, sì, e poi in altrettante sale, città secondarie. Comunque usciamo con 25 copie, okay, per il momento. Per il momento. Poi vediamo come vanno i primi giorni, soprattutto il weekend, e speriamo invece che invece di avere la solita settimana di programmazione, di avere qualcosa di più. Benissimo. Allora Enzo, un in bocca al lupo, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie, andate a vedere il film però. Ciao, a presto, ciao Enzo. Ciao, grazie. Ciao. Enzo Papetti, co-regista del film Calcolo infinitesimale, in uscita in sala oggi giovedì 16 giugno. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Tutte le informazioni le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page, colonna centrale, trasmissioni alla voce Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. In collegamento con Angelo Draicchio di Ripley's Film per parlare del restauro di alcuni titoli di Jacques Tati, in uscita in sala anche per il 20 di giugno di questo mese, quindi un altro paio di titoli, si era cominciato il 6 giugno. Angelo, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie a voi dell'ospitalità. Allora, Jacques Tati, parliamo un po' di questa scelta e di che tipo di lavoro state portando avanti. Beh, diciamo, il restauro è un restauro fatto dalla Film de Mon Oncle, che è la società che detiene i diritti dei film. Sì. È stato fatto un grosso lavoro per il recupero del patrimonio di questo geniale regista francese che, come dire, è stato uno dei pilastri del cinema francese dal dopoguerra in poi, e ci ha dato l'opportunità di riportarli all'attenzione del pubblico dopo tanti anni, e in quelle che erano le versioni desiderate dal regista. Tati ha dovuto, per ragioni produttive, soprattutto per Playtime che è questa settimana in sala, provare forzatamente diversi interventi. In questo caso si è cercato da parte del film Mon Oncle di ricostruire la versione più vicina a quella voluta da Tati, e ci è dato quindi la possibilità a distanza di anni di vederla. Stessa cosa per Playtime, stessa cosa per Mon Oncle e per i film che vedremo in sala, tra cui Le vacanze di Monsieur Hulot, che sarà in sala la prossima settimana, e poi a seguire dopo una settimana Jour de Fête. Senti, i film sono stati tutti restaurati, e se sì, e come mai la scelta di alcuni in particolare per l'uscita in sala? Beh, diciamo, i film sono praticamente l'opera integrale di Tati, ad eccezione di Trafic, che non è possibile distribuire in Italia per ragioni di diritti. Okay. I film sono restaurati, si vedranno in digitale in risoluzione 4K, e il lavoro di restauro è stato, come dire, molto filologico, perché si è lavorato su diversi materiali, su diverse versioni. In alcuni casi esistono più versioni dello stesso film che Tati stesso ha modificato nel corso degli anni. In questo caso, nel caso di Monsieur Hulot, o nel caso delle vacanze di Monsieur Hulot, nel caso di Jour de Fête, si vedranno le versioni originali dei film. Senti, puoi darci alcune altre indicazioni rispetto ad ogni titolo? Beh, le indicazioni sono soprattutto di andarle a vedere in sala, perché avere l'occasione di rivederli in sala è una cosa molto, sì, molto importante. Nel caso di Playtime, considerare che si tratta di un film girato in 70 mm è, come dire, un'esperienza notevole. Purtroppo oggi schermi di dimensioni tali non sono facili da trovare, però corriamo in sala a vederli finalmente sul grande schermo. E si tratta di opere incredibili, e sul quale vale fare un pensiero. Tati è stato estremamente saccheggiato, per usare un termine molto cortese, da cinema comico americano. Se qualcuno è appassionato di un film che è diventato una pietra miliare nel cinema americano, che è Hollywood Party, vedendo i film di Tati capirà quanto Black Edwards abbia omaggiato Tati. ed è incredibile capire quanto di questo comico, regista, autore, che era un artigiano grandissimo, è ancora oggi disponibile in film di altri. Tati è un autore amato da registi tra di loro davvero diversi. Lynch lo considero uno dei suoi autori preferiti, lo stesso Wenders o Olivier Assayas. Ed è un autore che è stato, come dire, considerato da uno dei registi più estremi del cinema francese come Godard, l'inventore di una sorta di neorealismo francese al pari di Rossellini. Si tratta di un cinema, come dire, che vale la pena riportare in sala, perché vedere un autore e ridere guardando a crepapelle guardando i suoi film, come dire, è un'operazione duplice. Da un lato è un'operazione autoriale, filologica, dall'altro è un'operazione di puro divertimento. Senti Angela, a tuo modo di vedere, quali sono gli elementi di attualità dell'opera di Tati? L'attualità di Tati è che è un cinema visivo, a differenza del cinema comico classico, che è un cinema di battute, di scrittura. Lui stesso si definisce un comico di gambe, un comico fisico. Veniva dal vaudeville, veniva da un'esperienza di teatro leggero. Tati costruisce tutta la messa in scena attraverso il movimento dei personaggi e attraverso i suoni. Il cinema di Tati è un cinema dove come dire, i dialoghi sono inesistenti. Parlare di versione italiana e versione originale, i film escono tutti in versione originale con i sottotitoli, e a volte è ridicolo, nel senso che Playtime ha credo 10 battute in totale. Quindi è un cinema molto attuale ed è un cinema molto visivo ed è un cinema che ancora oggi desta stupore. Una battuta di Truffaut a proposito del modo di filmare di Tati è che Tati filma come nessuno è in grado come probabilmente un marziano venuto dal futuro sarebbe in grado di filmare. Ed è incredibile come dichiarazione da un autore come Truffaut. Senti Angelo, in rete, per saperne di più, dove si può cercare? Si va sul sito www.omaggioattati.it e si va su Facebook, su Vigo SRL. L'operazione Tati nasce dalla collaborazione tra Ripley's Film e Vigo SRL. Lo volevo sottolineare, che è la società che sta curando appunto la distribuzione dei film nelle sale in questo momento. Benissimo. Ricordo che i film poi usciranno tutti, perché usciranno anche i corti e i documentari bellissimi, oltre a tanti materiali, un cofanetto per la fine dell'anno, finalmente in DVD, per la gioia di più piccoli e più grandi. Ricordiamo i due film in uscita la prossima settimana? Certamente, ricordiamo quello in questo momento in sala, al Farnese a Roma, per chi fosse di Roma, Playtime, poi prossima settimana da lunedì con Le Vacanze e Monsieur Hulot, e a distanza di 7 giorni con Jules de Fête, che è il primo film di Tati. Benissimo. Angelo, un abbraccio, a risentirci presto. Anche a voi, grazie, arrivederci. Angelo Draicchio di Ripley's Film sul restauro dei film di Jacques Tati, in uscita in sala dal 6 giugno a Scaglioni. I prossimi due film in programma li abbiamo appena ascoltati dalla sua voce. Leonardo Cinieri Lombroso, regista del documentario Doris Heong, che sarà programmato questa sera all'Apollo 11 qui a Roma, giovedì 16 giugno. Leonardo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buonasera a tutti. Raccontiamo un po' questa storia. Doris Heong, chi sono? Allora, Doris Heong è la storia di due donne, una Doris ha 72 anni e per caso, con un annuncio su internet, incontra Hong. Hong è una ragazza cinese di 23 anni, questa della nuova generazione, che vengono in Italia a studiare arte, e viene proprio per studiare arte e va a vivere a casa di Doris, a casa prende una stanza, e nasce questa strana convivenza tra queste due donne per un anno e mezzo, e molto curiosa sia per la diversità di età, soprattutto per la cultura. E poi dopo un anno e mezzo c'è questa strana proposta di Hong di a Doris di andare in Cina, e da lì parte questo viaggio per la Cina. Perciò è quasi un documentario diviso a metà, dove c'è tutta la prima parte a Roma e la seconda parte è tutta in Cina. E questa è un po' la storia e chi sono loro due. Senti, Doris, qual è la sua storia? Doris ha una storia molto particolare, perché praticamente lei è nata in Eritrea durante le colonie italiane e ha vissuto lì fino ai suoi 16-17 anni. Dopodiché praticamente con la famiglia lì le colonie finiscono e tornano in Italia e viene a vivere a Roma. E nel documentario questa cosa non viene fuori, per una scelta anche per non essere troppo documentario, ma deve essere un po' più diciamo più filmico, più vicino a un linguaggio più di cinema che di documentario vero e proprio con materiale di archivio. Perciò poi Doris, arrivando in Italia, poi è una persona molto aperta, per quello anche ospita Hong, perché sia il suo background dell'Africa e soprattutto perché i genitori avevano un hotel, perciò avevano tanta gente internazionale che passava in questo hotel, e poi anche perché dopo ha lavorato alla FAO e insomma, adesso è in pensione, perciò ha visto tanta gente ed è aperta a tanta gente. Leonardo, da dove viene l'idea di questo film? Allora, l'idea è strana, nel senso è un'idea che viene da un'esperienza. Io ho sempre lavorato in Asia negli ultimi 8 anni e praticamente avevo sempre questo pallino di fare una storia tra l'Occidente, tra l'Italia e l'Asia, e non riuscivo a trovare la storia. Praticamente poi l'ho trovata nel mio condominio a Roma, perché la figlia di Doris è una mia amica e abitava sotto al secondo piano, e un giorno mi dice: guarda, mia mamma ha preso una stanza, una ragazza cinese, a casa sua, e facciamo una cena, perché non vieni? E io sono andato lì e le ho trovate lì, e da lì mi prendo, ho visto questa interazione curiosa e gli ho proposto di fare questo documentario. Ho detto proprio: se vi seguo con la telecamera, neanch'io sapevo che cosa fare all'inizio. E loro erano disponibili, perché anche loro capivano che era curiosa questa amicizia, c'era qualcosa di bello, di strano, e qualcosa al di là della normale amicizia, ma non l'età, era più questo scambio culturale che avveniva giorno per giorno sulle piccole cose quotidiane che succedevano a casa. Mm-hmm. E così. Ecco, proprio a proposito dell'incontro tra Oriente e Occidente e questa curiosa amicizia, come la definisci tu, per quel poco che ne so, la comunità cinese è molto chiusa in se stessa, e quindi mi sorprende un po' questo incontro che c'è stato tra le due donne. Sì, ma bisogna pensare, allora, la comunità cinese che noi ci abbiamo, praticamente loro fanno molto, sono intanto di prima generazione, di immigrazione di prima generazione, sono, sì, quelli degli anni fine 70-80, sì, vengono da determinate zone dove praticamente erano un po' più povere, perciò venivano solo per trovare del lavoro, trovare dei soldi per poi mandare le famiglie in Cina, e si sono chiuse molto di loro non hanno mai imparato l'italiano, perciò parlano solo il cinese. La tendenza del cinese è sempre di fare di stare insieme, insomma, di chiudersi, perché è una cosa anche, diciamo, culturale, ma anche perché il problema primo, diciamo, è la lingua. Anche il cibo è un'altra grande cosa che non si viene a patti, non si accetta, ma anche l'italiano all'estero non accetta il cibo se si porta le sue cose, e perciò è simile. Però adesso bisogna far conto anche alla generazione nuova. La generazione nuova è molto più aperta, viaggia molto di più, molti, sì, di loro studiano all'estero, parlano la lingua, parlano inglese e sono più aperti a conoscere il mondo, diciamo. Perciò Hong fa parte un po' di questa nuova generazione, che è molto interessante, ma anche molto interessante in Cina, perché io lavoro anche in Cina in alcuni progetti lì, e vedo la nuova generazione che attraverso i genitori e i nonni cerca di ricostruire la storia del suo paese, perché molte cose nei libri di scuola non si trovano, perché parte della storia viene un po' censurata dal governo. Allora è interessante questa nuova generazione che ricerca il passato e questo aprirsi al mondo. E per questo poi nasce questa storia di Doris e Hong, perché Hong, soprattutto Hong, è anche una persona molto aperta, nel senso si è aperto tantissimo, ci ha raccontato delle cose molto personali che si scoprono poi nel documentario, perché c'è questo suo diario interno di pensiero, no? E che ti racconta proprio i stati d'animo, ed è molto difficile trovare un cinese che si apre in quel modo intimo, no? Molto intimo. È stata una fortuna avere Hong, ma anche questa è una tendenza nuova della Cina. Senti, quali sono gli elementi che più ti hanno sorpreso in questa storia? Gli elementi che sono più sorprendenti, quello che mi è piaciuto di più sono loro due, nel senso, perché sono intanto due personaggi molto eclettici, molto appariscenti, loro prime donne, perciò erano sullo stesso tema. Ma queste, essendo prime donne, comunque si mettono a confronto quasi come se avessero la stessa età, e quella anche era una cosa un po' strana, perché Doris diventava un po' più ragazza e Hong diventava più adulta, perciò c'era un punto di incontro che avevano trovato che era straordinario, e quello mi piaceva tantissimo. E poi all'interno i pensieri, perché io comunque giravo ogni tanto anche solo con Doris o solo con Hong, e scoprivo i pensieri di una e sull'altra. E poi quando loro hanno visto il documentario, la cosa bella è che ognuno ha scoperto l'altra attraverso il documentario e questa è stata una cosa curiosa, perché poi il parlare è molto difficile, io le spingevo in alcune scene a chiacchierare, a parlare tra di loro, di dirsi delle cose, e loro praticamente la maggior parte delle cose se ne sono dette durante le scene che giravamo, ma non è perché io gli dicevo delle cose da dire, ma perché le mettevo nella posizione che dovevano dire qualcosa e parlare della situazione che si stava svolgendo in quel momento. E allora in quel momento loro si incominciavano a confrontare veramente, ed era interessante questo scambio. Il viaggio è stata la cosa più bella, la cosa più bella che mi è piaciuta è stato il cambiamento di Doris, perché Doris, 72 anni, affrontare un viaggio così avevo paura, e perciò ero molto vicino a lei. Lei il primo giorno ha avuto uno shock sul cibo e non riusciva a mangiare, perciò è stato un po' difficile. Però la cosa bella di Doris, come si adatta a tutto, nel senso, ho visto lei come si è trasformata e come è diventata amica della mamma di Hong, nonostante non parlasse la lingua, e loro erano amiche, giravano a braccetto per la Cina parlando per ore, non so di cosa, perché forse a gesti, non so come, però riuscivano a parlare. E perciò era questo veramente, questo scambio, questa trasformazione della persona, Hong che si trasformava sempre più romana e Doris che diventava più cinese, cercava di capire questa Cina, e questa è stata la cosa che mi è piaciuta di più. Oh, Leonardo, stasera è la proiezione alla Apollo 11 qui a Roma, la tua presenza, e poi che ne sarà del documentario? Allora, il documentario sta girando molto l'Italia, finalmente è uscita un po' da Roma, perché prima erano tutte le proiezioni a Roma, abbiamo già fatto Firenze, Prato, e andremo ad Aosta, poi andrà in Cina, sarà proiettata a Pechino a ottobre, e poi stiamo parlando con Milano, Genova, insomma, stiamo contattando sia le università che si occupano di Cina, di Asia, e poi ci sono tante associazioni interculturali che sono interessate. Questo è il percorso, però noi siamo su Facebook e se uno spinge mi piace, naturalmente gli arrivano tutte le comunicazioni di dove andiamo, quando proiettiamo e sì, quello che facciamo. Tra l'altro la scelta di Prato non credo sia casuale. No, la volevo da tanto tempo, e ci sta questo festival cinese, il Dragon Film Festival, e mi hanno ospitato, l'abbiamo fatto ed è stato pazzesco, perché avevamo comunque il pubblico diviso a metà italiano e metà cinese. Sì. Ed è stato apprezzato da tutte e due. Infatti questa sera facciamo, come a Prato, la proiezione con i sottotitoli italiani e cinesi, così vediamo se qualcuno di Piazza Vittorio viene, qualche cinese. Stasera sarebbe molto bello, perché comunque hanno la possibilità anche i cinesi di vederlo. Leonardo, i riferimenti ce li hai dati, io ti ringrazio, ci sentiamo presto. Grazie a voi. Alla prossima. Alla prossima. Ciao Leonardo. Ciao ciao. Leonardo Cinieri Lombroso, regista del documentario Doris e Hong, questa sera all'Apollo 11 qui a Roma, giovedì 16 giugno. In linea c'è Ludovico Di Martino, regista del film Il Nostro Ultimo, che sarà presentato questa sera al Roma, al Cinema Nuovo Sacher, stasera giovedì 16 giugno. Ludovico, benvenuto a Visionari. Grazie mille. Senti, al Sacher cos'è, la rassegna Bimbi Belli o un'altra? No, è la rassegna Bimbi Belli, okay. Perché siamo ancora dentro la sala, l'arena aprirà a luglio, okay. E quindi è proprio un vero e proprio evento a sé. Raccontaci un po' di questo film, Ludovico. Allora, questo film parla, diciamo, di questi due fratelli che intraprendono questo viaggio alla volta della Sicilia un po' particolare, perché sono costretti, diciamo, dal senso di colpa, dopo aver perso da poco la madre, a caricare la bara della madre, col corpo della madre, sul portapacchi della loro auto e insomma partire alla volta del sud. E ovviamente, essendo un film di genere on the road, prevede una serie di incontri che li faranno ripercorrere un viaggio nella memoria e riscoprire anche dei segreti familiari, ecco. Senti, il viaggio con il morto fa tornare alla mente una serie di film sempre in chiave di commedia, anche questo il caso? Guarda, questo in realtà non l'abbiamo mai capito, perché effettivamente non è un film sicuramente di genere commedia. Si ride molto, ma sono risate isteriche più che risate. Senti, come viene fuori quest'idea? Guarda, quest'idea è nata in maniera molto particolare, perché partecipiamo a un concorso che fanno a Roma, che si chiama il 48 ore Film Project. Sì. Che è un concorso che prevede la scrittura, la realizzazione e la finalizzazione di un cortometraggio nell'arco di sole 48 ore, e sulla base di alcune linee che ti danno, e a noi ci capitò il genere on the road. Siccome io avevo in cantina una bara che veniva da un altro set di una cosa che avevo girato, abbiamo unito le due cose e quindi è uscita fuori questa storia. Poi finito il cortometraggio, che era terribile dal punto di vista tecnico, era veramente inguardabile, però aveva questa storia che in realtà funzionava e alla gente piaceva, emozionava molto, quindi ho deciso, insomma, di riprenderla poi dopo qualche mese e di provare a svilupparla in chiave di lungometraggio. Ecco, come ha funzionato questo sviluppo di sceneggiatura per passare dal corto al lungometraggio di finzione? Guarda, è stato in realtà molto semplice, ma perché non ero assolutamente cosciente di quello che stavo facendo, non avendo conoscenze, insomma, di alcun tipo tecniche, ma avendo visto solo tanti film, perché comunque l'ho cominciato a scrivere, avevo 21 anni. Sì. E iniziavo proprio in quel periodo il centro sperimentale, quindi ero proprio nel marasma, nel mare dell'incoscienza, ecco. Che però secondo me è stato anche un punto di forza, cioè scrivere questo film senza rispettare gli appuntamenti classici che vengono un po' imposti oggi nel cinema, soprattutto nella scrittura. Senti, Ludovico, come hai messo insieme poi la squadra per realizzarlo? La squadra sono ragazzi che ho conosciuto su altri set, ho conosciuto a scuola, anche amici, addirittura mio fratello, per esempio, anche lui è venuto a guidava la macchina in Corsia Amalfitana e ci accompagnava nei posti insieme a un altro mio caro amico, quindi è un gruppone affiatato di amici ancora prima che di tecnici. E poi ovviamente dopo l'esperienza siamo diventati ancora di più, quindi oggi posso anche affermare che, insomma, se devo uscire la sera a bere una birra mi vedo con loro, quindi Senti, oggi questa proiezione di presentazione a Roma, e poi che succederà? Poi stiamo organizzando, ovviamente a seconda di come andrà stasera, ne dico, insomma, molto si vedrà sulla base di quello che succede stasera. Quello che stiamo facendo con Gianluca Arcopinto, che è il nostro distributore, è cercare di concepire una distribuzione un po' particolare. Ultimamente la stiamo definendo una sorta di tournée teatrale, quindi anziché un'uscita unica in più posti, cercare di portare il film di persona nelle città d'Italia. Adesso abbiamo anche già delle date a Milano, a Torino, a Firenze. E lo porteremo come se fosse veramente uno spettacolo teatrale, cioè da essere lì presenti e poter parlare col pubblico e cercare anche di riportare, restituire un messaggio che va anche oltre il film stesso, ma che, insomma, nasce anche dalla modalità attraverso la quale è stato fatto questo film, no? Questa follia, questo arrembaggio di gruppo incosciente. Senti, ci hai parlato di anche della presenza di tuo fratello, quindi immagino ci siano anche elementi autobiografici nella scrittura. Sì. Cioè, oddio, mia madre è viva. La madre è viva, e questo lo precisiamo. Però sì, sicuramente scrivendo la sceneggiatura ho preso tantissimo sia da quelli che sono poi i miei luoghi d'infanzia, perché sì, questi fratelli arrivano fino in Costa Amalfitana, mio padre è di Amalfi. cioè, sono posti dove, dove anch'io sono cresciuto, ho un fratello più piccolo e quindi questo rapporto conflittuale l'ho un po' replicato, e poi soprattutto i due protagonisti sono due personaggi che ho cercato di avvicinare e assimilare il più possibile a Fabrizio Colica e Guglielmo Poggi, che sono i dottori protagonisti che l'hanno interpretati, quindi ci sono dei pezzi di verità che appartengono sia a me che ai due attori, che poi alla fine hanno scritto la, le trame del film. Hanno contribuito anche loro, insomma, alla, alla realizzazione. Senti Ludovico, per saperne di più, c'è una pagina Facebook, un sito internet? C'è una pagina Facebook, cercate Il Nostro Ultimo, che è il titolo del film, e adesso abbiamo solamente quella, che tanto ormai penso che sia più che sufficiente, insomma, e potete seguirci da lì. Ovviamente noi continueremo ad aggiornare il calendario di volta in volta, appena uscirà, ufficializziamo una data in una città, insomma cerchiamo di promuoverla il più possibile, ecco. Ok, allora chiudiamo, ricordi l'appuntamento di quest'oggi? Certo, stasera alle 20:30 spaccate, ci hanno raccomandato, quindi si raccomandano le persone di arrivare una mezz'oretta prima al cinema Nuovo Sager, che è a Largo Ashanghi 1 a Roma, dietro Porta Portese, il cinema del grande Nanni Moretti. Ci vediamo lì per la visione del film e poi dopo ci andiamo a bere una cosa tutti insieme allo Statlin, che è un locale lì accanto, con un po' di musica dal vivo, insomma. Bene Ludovico, allora un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille. ciao. Ludovico Di Martino, regista del film Il Nostro Ultimo, questa sera al nuovo cinema Nuovo Sacher qui a Roma, giovedì 16 giugno, e con lui terminiamo l'appuntamento di questa settimana con Visionari, il cinema su Radio Onda Rossa, tutti i giovedì dalle 14 alle 15, ci ascoltate in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza e anche in streaming dal sito internet della radio, che è ondarossa.info. Sull'home page c'è Ascolta la diretta, sul sito, sempre sull'home page, colonna centrale, trasmissioni, Visionari, trovate la scaletta e tutte le informazioni sulla trasmissione. La pagina Facebook è Visionari, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info.